24 mattino di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia, benvenuti a questa puntata speciale di 24 mattino. Sono le 6, 13 minuti e 22 secondi, è lunedì 24 febbraio e veniamo, come ben sapete, da un fine settimana piuttosto intenso, soprattutto al nord, dove si è scatenata un po' anche di psicosi, che ha a che fare con il coronavirus, l'aumento dei casi, sono più di 150 in 5 regioni, e la puntata speciale di oggi è dedicata esattamente a questo, anche a chiarire i vostri dubbi che potete esprimere al 349-238-6666 per gli sms e messaggi su WhatsApp, anche audio, fateci sentire la vostra voce, e se la vostra voce arriva da queste aree isolate del paese, beh, a maggior ragione. Carmelo Laricella regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione e soprattutto Nicoletta Carbone accanto a me. Nicoletta, grazie, eccoci. Simone, buongiorno e benvenuti a tutti. Allora, in ideale continuità, quindi con il lavoro splendido che sta facendo Nicoletta Carbone in questi giorni, col lavoro splendido che hanno fatto in questo fine settimana i colleghi del GR che hanno organizzato speciali su speciali, hanno cercato di aggiornarvi, cercheremo di essere all'altezza questa mattina e di raccontarvi tutto. Con tutta una serie di dubbi, no, che permangono e che rimangono, alcuni sotto traccia, altri meno. Dei dubbi di carattere pratico, quelli che avete voi e che abbiamo noi stessi. Come ci dobbiamo comportare, che cosa dobbiamo fare, quando è il momento di andare in ospedale e farsi fare la verifica, farsi fare il tampone per capire se c'è un problema di quel tipo oppure no, quali sono i sintomi, le mascherine servono, non servono, l'abbiamo detto mille volte, però forse ancora una volta è il caso di tornarci, disinfettarsi le mani, come, quando, come lavarsele e via dicendo, e questi sono i dubbi pratici. Una seconda colonna, se vogliamo, sono i dubbi epidemiologici. Come si sta diffondendo effettivamente? Come mai abbiamo avuto un'esplosione di casi nel nostro paese? È dovuto solamente, e questo è il dubbio, no, che aleggia un po' in queste ore, è dovuto solamente al fatto che noi di controlli ne stiamo facendo di più degli altri? Pensate che negli Stati Uniti solamente 3 laboratori su 100 hanno dei test affidabili, per darvi la misura. In Francia stanno facendo solamente 400 test al giorno. E dunque, forse dipende semplicemente dal fatto che stiamo verificando un po' meglio. E dato che i sintomi, nella maggior parte dei casi, sono leggeri, dei sintomi simili a quelli dell'influenza, ebbene, forse siamo gli unici che se ne stanno accorgendo. È veramente così. Qual è la letalità effettiva? E in quali fasce della popolazione colpisce? Quali fasce della popolazione è più letale? Appunto, è sottostimato in altri paesi? Beh, vedremo, cercheremo di capire anche questo. Poi c'è la risposta politica, ragazzi, c'è la risposta politica. Le decisioni sono adeguate? Questa scelta di chiudere i voli diretti dalla Cina è una scelta che, come dice qualcuno in queste ore, ha in realtà peggiorato le cose, perché non sei stato in grado di tracciare chi effettivamente arrivava dalla Cina perché faceva giri passando dalle altre parti. Le chiusure di scuole, musei e via dicendo sono giustificate? E soprattutto, fino a che punto le spingi? Fino a che punto le spingi? Cioè, quando è il momento, hai uno scenario, degli scenari base, uno migliore, uno peggiore, nel quale decidi, proseguiamo con la chiusura delle scuole, no, facciamo ritornare a scuola i ragazzini? Insomma, sono tutti temi sul piatto, insieme a quello che resta sullo sfondo, che è quello economico, ossia il fatto che in questo momento il cuore produttivo del paese, se non è fermo, poco ci manca. E dunque possiamo iniziare. Chi abbiamo? Abbiamo Giuliano Rizzardini, direttore del Dipartimento Malattie Infettive 1 del SACCO, che è un po' il cuore di tutte le vicende di queste ore. Rizzardini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Grazie per aver accettato invito a quest'ora indecorosa. Allora, Nicoletta, inizia tu, vai. Dottor Rizzardini, io le chiederei di fare un po' il punto della situazione. Sappiamo che il SACCO, insieme allo Spallanzani, un centro di riferimento nazionale, tanti casi concentrati al nord. Dottor Rizzardini, misuriamo un po' la situazione. Ma siamo, un primo caso che è stato segnalato è stato giovedì scorso, da allora probabilmente non sentivo che lo dicevate anche voi, e sono stati fatti tanti test e i casi si sono moltiplicati. L'epicentro è impostato la zona del che vi aumentato, può starsi, nel senso che questa è un'infezione trasmissibile per quanto ne sappiamo, e normalmente queste infezioni da un caso ne fanno due, per cui due e mezzo, per cui diventano tre, questo ne fa altri due, quindi è facile che ci sia una propagazione, insomma, simile all'influenza, i contatti stretti possono poi diventare a loro volta infetti. Dica. Dottor Rizzardini, il fatto che non ci sia il paziente zero, perché i test fatti su quel famoso collega tornato dalla Cina con cui il 38enne attualmente ricoverato era andato a cena sono risultati poi negativi, che cosa ci racconta? È un elemento a nostro favore o a sfavore? Ma di solito quando si identifica il paziente zero si riesce a capire proprio un pochino della catena di trasmissione, facilita un po' l'idea di come si è mossa l'epidemia. In realtà non sempre si riesce a capire quale possa essere il paziente zero. Poi ripeto, noi abbiamo cominciato a tracciare tutto 3 giorni fa, quindi è tutto presto. La differenza rispetto ad altre situazioni è che siamo un po' tutti sotto l'occhio dei media e voi media calcolate ogni nuovo caso, quindi diventa tutto un pochino più evidente, più difficile. Certamente, e forse questo influenza anche, diciamocelo, la risposta della politica. Rizzardini, mi dà un'idea dal punto di vista della cronaca di come siete messi al sacco nello specifico, cioè quanti pazienti ricoverati, in che condizioni sono soprattutto e se ce ne sono in condizioni gravi, hanno una storia clinica particolare, perché poi le domande che si fanno alle persone sono anche queste, no? Se sono sano, se sono una persona sana, che non ha patologie precedenti, non sono anziano, sono una persona di mezza età, un giovane, eccetera, eccetera, cosa rischio effettivamente? Prego. Ma questo possiamo vedere un po' dall'epidemia che c'è stata in Cina, da altre epidemie precedenti, normalmente sono più soggetti ad avere forme gravi, soggetti anziani, soggetti che, come diceva lei, hanno già avuto in precedenza altre patologie. Normalmente l'80% delle persone fa delle forme che noi definiamo quasi sintomatiche, un po' simili a quelle dell'influenza, neanche un'influenza così brutta, c'è un po' di febbre, un po' di tosse e poi finisce tutto lì. Chiaramente chi è più fragile, come per tutte le malattie infettive, può diventare più grave fino ad arrivare ad avere delle polmonite importanti, in qualche caso anche la morte. I dati che ci vengono dalla Cina fanno appunto di una mortalità, soprattutto in periodo di persone anziane, che è attorno al 2%. Questo è il quadro, mi scusi, al sacco da voi com'è? I numeri non posso, non siamo autorizzati a dirli perché i numeri li dice solo regione. Ci sono un po' di tutte le tipologie, insomma, stiamo vedendo quello che un po' la letteratura ci descrive. Sostanzialmente, insomma, è in linea, no, con quello che abbiamo visto a livello internazionale, in sostanza. Ecco, la cosa buona è che eravamo pronti a rispondere, abbiamo risposto bene. In qualità di direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, ho visto un'ottima capacità di risposta da parte di tutta la gente che lavora a sacco, soprattutto la voglia di lavorare. In questi giorni hanno lavorato tutti senza guardare l'orologio, hanno tutti risposto prontamente secondo i protocolli che ci vengono indicati via dal Ministero, dalla Regione e quelli che abbiamo interni, essendo uno dei centri di riferimento per l'emergenza infettivologica. Noi abbiamo un protocollo per l'emergenza infettivologica che mi ricordo abbiamo fatto forse dal 2007, con quale abbiamo affrontato situazioni complicate come è stata la SARS, come è stata la risposta all'eventuale Ebola nel 2014-2016. Quindi questi protocolli sono stati ripresi, sì. Erano tutti pronti ad utilizzarli e la risposta è stata buona. Rizzardini, Qua c'è già qualche ascoltatore un po' che polemizza sul tema che abbiamo affrontato all'inizio e sul quale vorrei che lei ritornasse proprio per chiarire. Allora un ascoltatore dice: questa che saremmo i più bravi a scoprire i positivi e che gli altri semplicemente non li vedono, mi sembra una scemenza. Non è che siamo più bravi, Rizzardini, semplicemente che facciamo più test. Facciamo più test. No? Sono stati quasi un migliaio, per cui dentro quelli siamo riusciti a identificare i numeri che a questo momento non è che siano poi così esagerati, ecco. Ecco, della serie Chi cerca trova. Dottor Rizzardini, si contagiano anche gli operatori. Ma questo è successo molto ecco, spesso. È una cioè, succede sempre così. Adesso lei sottolineava giustamente che i media riportano ogni caso. Questo sicuramente può creare una sorta di allarme perché tutto viene amplificato, ma è la stampa bellezza, come si dice. Dottor Rizzardini, il contagio degli operatori, che cosa aggiunge? Che cosa ci dice? Questo l'abbiamo osservato molto anche durante la stanza. No? Molti casi vengono contagiati perché non si sa che siamo in presenza di una nuova epidemia, quindi sono i casi in cui le protezioni individuali che non sempre si utilizzano, la mascherina, i guanti, nella normale routine non vengono sempre utilizzati. Poi chiaramente l'operatore si espone più facilmente anche durante le situazioni epidemiche, per questo che bisogna avere dei protocolli come quelli che stiamo utilizzando in cui bisogna usare i dispositivi di protezione individuale che sono in alcuni casi particolari, con le tutine che ogni tanto vedete in televisione che fanno spaventare un po', che sembrano tutti degli astronauti, sono delle tutine idrorepellenti che si chiudono bene, che vanno messe però in una certa maniera, per cui bisogna, e vanno soprattutto tolte in una certa maniera per evitare le contaminazioni, e quindi bisogna essere capaci di utilizzarle. Nel momento in cui tu utilizzi bene queste cose non ti contamini, però bisogna essere una situazione in cui si sa che siamo in presenza di un agente biologico nuovo, come si trasmette, e questi probabilmente si trasmette per via aerea, quindi bisogna proteggersi in questo senso. Allora, la questione dell'approccio nei confronti, no, di questo virus, è stato molte volte ospite da noi, ieri ospite, se non vado errato, da Fabio Fazio, no, Walter Ricciardi. Vabbè, insomma, adesso ripescheremo la trasmissione dalla quale l'abbiamo preso. Walter Ricciardi, appunto, lo farei sentire su come si è mossa la Francia rispetto a noi, perché qua il tema di come effettivamente ci siamo comportati, come abbiamo gestito la fase precedente, c'è ed è discusso e discutibile. Per me in questo momento la Francia è quella che si sta comportando meglio. Ha bloccato i voli diretti? No. Ha fatto i controlli della febbre negli aeroporti? No. Ha tracciato tutti quanti i cittadini che venivano? Sì. Li ha seguiti uno per uno? Sì. Li ha seguiti nello stesso modo in tutto il paese? Sì. Li ha seguiti soltanto l'autorità sanitaria? No, perché si sono rivolti alle prefetture e alle autorità militari, affidata alle persone competenti. Perché non si trova questo caso zero? L'epidemiologia di campo, che è la scienza investigativa degli epidemiologi per rintracciare il caso zero, è una tecnica sofisticatissima. Ci sono le competenze in Italia per fare questa epidemiologia di campo? Sì. Sono state messe a disposizione in maniera ramificata in tutto il territorio? No. Così Ricciardi, dunque, poi sicuramente lo sentiremo nell'arco di questi giorni. Intanto voglio salutare Francesco Passerini, sindaco di Codogno. Buongiorno. Ricciardi, me l'ha scritto addirittura un ascoltatore, era dalla Annunziata, evidentemente c'è qualcuno che guarda, che segue un po' tutte le trasmissioni su questo. Passerini, buongiorno. Innanzitutto, come vanno le cose là a Codogno, il primo comune isolato sostanzialmente? Beh, dai, diciamo che vanno abbastanza bene, sicuramente è un qualcosa che in divenire nelle varie ore. Adesso, soprattutto dopo il decreto del Consiglio dei Ministri, andiamo a verificare appunto lo sviluppo, visto che dal periodo di guerra ad oggi nessuno ha mai vissuto un blocco di questo genere. Però detto questo, la popolazione sta collaborando, le attività stanno collaborando, le partite stanno collaborando, quindi penso che veramente sia stato capito da tutti che quello che vuole essere, quello che sono comunque tutta una serie di atti serve per tutelare un po' la salute di tutti, ecco. Passerini, lei l'ha fatto il tampone, tutto a posto? Io non ancora, però grazie a Dio, toccando ferro, non ho. Non ha né tosse né raffreddore. No, assolutamente no, toccando ferro, se oggi non ho né tosse né raffreddore, nient'altro, ecco, grazie. Cioè, ci racconta come sono le cose, cosa c'è, l'esercito, i carabinieri ai lati del paese che impediscono l'ingresso, come funziona? Allora, ad ora so che è stata isolata comunque la zona rossa, quindi il confine perimetrale, che poi in alcuni casi non sono neanche direttamente Codogno ma sono altri comuni, però sicuramente, ecco, è in vigore il divieto proprio di lasciare la zona, chiunque si trova al di fuori, questa tra virgolette di fuori, escluso quelli che sono gli operatori di pubblica utilità e gli operatori sanitari, che invece chiaramente a seguito della verifica sanitaria che deve essere fatta continuano a svolgere la loro attività, che io ringrazio veramente, veramente di cuore. Sì, li ringraziamo anche noi, ce l'ha scritto un ascoltatore, dice: sono un coordinatore infermieristico, per favore, ecco, supportate moralmente tutti, bravo, gli operatori, grazie, sanitari, certo, che anche con paura lasciano le loro case, le loro famiglie e vanno ad assistere i malati o vanno appunto ad aiutare, a fare le verifiche e via dicendo, massimo supporto morale. Anche i volontari di protezione civile, sì, tutte le forze dell'ordine, le tantissime veramente persone che da praticamente 4 giorni dormono praticamente niente e sono al lavoro proprio per cercare di ridurre quanto prima questa emergenza nella sicurezza per tutti. Passerini mi diceva che comunque la popolazione la sta vivendo tutto sommato abbastanza bene. Sì, per quello che può essere, chiaramente, perché sono quasi dei domiciliari forzati, però sicuramente è una qualcosa che si è capito che è meglio fare proprio per limitare il più possibile quello che può essere un eventuale sviluppo di questo virus, ecco. Quindi per carità, non è una cosa piacevole, dove si può essere entusiasti, però ma come a dire, si fa. Si deve fare, esatto, si fa, esatto. Si deve fare, diciamo, si fa. Che nell'Odigiano diciamo siamo abbastanza pragmatici, quindi siamo capaci di fare sacrifici, in questo momento c'è da fare sacrifici, pensiamo anche per un interesse più grande, quindi i nostri, esatto, concittadini tutti sanno che è da fare, è giusto farlo, e aspettiamo e speriamo veramente che questo brutto info, questa brutta pagina passi, che si parli dell'Odigiano, ma anzi io invito anche per quella che era la terra dinamica, attrattiva, allegra, che è sempre stata, ecco. Giustamente, momento proloquo del sindaco Passerini, ma giustamente dice, certo, insomma, passata, certo, l'emergenza, venite, che è una bella zona. Allora ci fermiamo, grazie Francesco Passerini, sindaco di Codogno, ci fermiamo, una pausa. Mattino. Le 6:35 minuti, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, questa è una puntata speciale di 24 mattino, all'uscita da un fine settimana molto intenso per la vicenda del coronavirus, in continuità con il lavoro fatto da Nicoletta Carbone, che in studio con me. Nicoletta, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. In tutti i giorni scorsi e in continuità con il lavoro fatto nel fine settimana dai colleghi di GR24, uno splendido lavoro, cerchiamo di continuare a dare un po' di informazioni su questa vicenda, su questa esplosione di casi soprattutto in Lombardia, ragionarci un po' intorno, ma soprattutto cercare di dare notizie affidabili, concrete, aiutare anche voi a capire che cosa effettivamente sta succedendo. Aspettiamo le vostre voci anche al 349-238-6666 via WhatsApp audio per dirci, insomma, che innanzitutto per porre le vostre domande e poi se siete nelle zone, no, un po' quelle bloccate come Codogno, della quale abbiamo appena sentito il sindaco, beh, fatevi sentire, raccontateci un po' come vanno le cose. Ci ha raggiunti mentre resta con noi Giuliano Rizzardini, direttore del Dipartimento Malattie Infettive 1 del Sacco di Milano. Ci ha raggiunti Marcello Ottavio, presidente di SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, è direttore tra l'altro dell'unità operativa di malattie infettive degli ospedali di Ancona. Ottavio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno professore. Buongiorno, ascoltatori. Buongiorno, buongiorno. Nicoletta, prego. Allora, io vorrei che il professor Tavio, il dottor Rizzardini, ci aiutassero a ripercorrere un po' la strada. Allora, sappiamo che febbraio, lo sottolineava anche ieri il dottor Galli del Sacco, è per antonomasia il mese della febbre, il nome lo racconta. Quindi è possibile che in questo periodo dell'anno le persone abbiano delle forme influenzali. E leggiamo sintomi quali la tosse, una leggera rialzo della temperatura, le ossa rotte. Che cosa, come facciamo? Come fa la persona comune che ha condotto una vita assolutamente normale, sa di non essere venuto, o almeno non pensa di essere venuto in contatto con persone contagiate, come fa a distinguere e a capire la gravità dei sintomi? In questo caso, noi lo continuiamo a sottolineare, non si va in ospedale, ma è l'ospedale che viene nelle nostre case. E che cosa succede? Prima la parola al dottor Rizzardini e poi passa al professor Tavio. Rizzardini. Ma quello che ha sottolineato lei è importante. Non si va in ospedale, quindi si chiama proprio medico curante. Il medico curante può fare un'analisi un pochino più dettagliata, capire se c'è stata la possibilità di un contatto con qualche situazione simile a quella che sta verificando adesso. In quel caso inviarlo in ospedale con un approfondimento diagnostico. Fondamento diagnostico prevede anche la possibilità di fare il test per l'influenza che pone la diagnosi differenziale con il coronavirus, quindi mi sembra che lei abbia già dettagliato bene quello che bisogna fare. Professor Tavio, coronavirus, molti lo paragonano a una spagnola, altri a una comune influenza. Chi ha ragione? Ecco, bravo. Ha ragione chi la paragona alla spagnola, perché la mortalità del nuovo coronavirus è percentualmente simile a quella che fu associata alla spagnola. Quindi è senz'altro una malattia seria, perché se si confermano i dati che la Cina ci comunica, poi dopo vedremo di verificarli anche noi per conto nostro, la mortalità è del 2%, tra il 2 e il 3%, ed è una mortalità elevata. Spalmata su una normale epidemia influenzale si tradurrebbe in migliaia di morti, cosa che non succede con la normale influenza. Quindi è più simile alla spagnola come tipo di patologia. Certamente questo non deve farci prendere dal panico, perché comunque è chiaro che abbiamo gli strumenti per intercettare la malattia e fermare il contagio. Siamo perfettamente in tempo e con il tempo svilupperemo anche il vaccino in tempi relativamente rapidi, forse non così rapidi da intervenire nei prossimi mesi, ma sicuramente a breve. 2-3% ci dà un'idea, la misura della mortalità dell'influenza, giusto per aiutarci a capire? Diciamo che è almeno di 100 volte inferiore. Almeno di 100 volte inferiore. Senta Tavio, c'è un dubbio che sta circolando in queste ore, così aiutiamo, iniziamo anche a sciogliere un po' di dubbi medici che stanno circolando tra gli ascoltatori, medici o meglio, medici ed epidemiologici. Il tema dell'incubazione, si è detto 14 giorni inizialmente, poi sta circolando questo 21 giorni, cosa sappiamo? Anche 9, nei numeri è spuntato fuori anche un 7-9 giorni di incubazione. Professore. Sì. Diciamo che bisognerebbe ricorrere a una spiegazione di tipo statistico. La stragrande maggioranza delle persone sviluppano sintomi di malattia in 14 giorni ed è quello che consente alla malattia di diffondersi con rapidità. Poi quello che succede dopo i 14 giorni probabilmente è meno significativo, cioè meno importante per la diffusione della patologia. Quindi direi che è corretto dare il messaggio dei 14 giorni di incubazione, che sono quelli che riguardano la stragrande maggioranza delle persone. Allora, nel salutare Giuliano Rizzardini, appunto direttore di Dipartimento Malattie Infettive 1 del Sacco di Milano, Rizzardini, grazie, buona giornata, grazie per aver accettato. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro anche a Marcello. Grazie, Giuliano. Grazie per le informazioni che ci ha fornito. Rimaniamo appunto con Marcello Tavio. La trasmissione asintomatica. Su questo tema come dire, abbiamo avuto un percorso strano, perché all'inizio quando è esploso il coronavirus si è detto sì, no, forse. Nelle ultime ore sembra che il tema della trasmissione asintomatica si sia fatto un po' più pressante. Tavio, ci dà un'idea anche qua? Guardi, anche in questo caso la questione riguarda il numero di persone che possono avere trasmesso l'infezione in fase asintomatica. È sicuramente basso, se c'è, e quindi è meno importante nella diffusione dell'epidemia. Questo è il messaggio forte che dobbiamo dare. Quindi resta valido il discorso che le misure di prevenzione riguardano le persone con sintomi, che sono quelle di gran lunga più importanti nella cosiddetta dinamica epidemica, ovvero la diffusione della patologia nell'ambito della popolazione. Se dovessimo far valere in assoluto il criterio dell'asintomaticità, allora vorrebbe dire che facciamo cadere il criterio epidemiologico, e questo complica enormemente le cose nel controllo dell'epidemia. Allora, giusto per evitare rischi che poi si spargano, no? Ipotesi di complotto, un ascoltatore ci dice: avete intervistato il dottor Rizzardini, che la domanda quanti sono gli ammalati presenti nel loro ospedale e se erano o no gravi, ha risposto che numeri non ne vuole dare. Esatto, appunto, lo precisiamo. Alla luce di ciò, che sono credibili i numeri degli ammalati che vengono dati di voi? Non ha detto che non ne vuole dare, ha detto che la fonte di informazione in questo caso è la regione, cioè sarà la regione a dare i numeri precisi, quindi non sarà il singolo ospedale, il singolo sacco a darli, ma sarà la regione. È giusto così che ci sia un controllo sulla informazione, soprattutto quando si parla di numeri, perché poi i tecnici devono commentare i numeri e devono dimostrare che stanno facendo un commento di numeri che vengono controllati. È molto importante, sì, distinguere le due cose, il dato dal commento. Se no diventiamo pazzi. No, giusto, esatto, per chiarire, Tavio, se no diventiamo pazzi, no? Perché prendiamo i numeri del sacco e poi prendiamo i numeri dell'ospedale di Codogno, bravo, i numeri dell'ospedale, sì, di provincia, sì, e alla fine non si capisce più niente. Mentre invece è giusto che su questo ci sia. Ma il professor Tavio ha sottolineato un aspetto importante che aveva già ripreso in diverse occasioni in trasmissione: separiamo il dato dal commento. Professore, questo... Sì. Questo è fondamentale. È un messaggio importante, perché dobbiamo tutti umilmente riconoscere che i dati sono una cosa e i nostri commenti sono un'altra. E bisogna, sì, avvertire le persone, i non addetti ai lavori, che stiamo commentando un dato. Il dato invece è quello. Mi scusi, ma io devo entrare in trasmissione, sì, in 1:00 l'avevo avvertito Nicoletta, e sì, quindi chiedo scusa, ma devo... interrompere. Allora, Marcello Tavio, la ringraziamo, presidente di SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, direttore dell'unità operativa di malattie infettive degli ospedali di Ancona. Dunque, grazie per essere stato con noi. C'è il traffico, poi abbiamo un po' di messaggi audio degli ascoltatori da far sentire. Allora, intanto arrivano un po' di notizie importanti anche dall'estero, che non riguardano solamente la situazione italiana, e ci sembra opportuno darle, perché se da una parte in Italia si arriva in una situazione che secondo i giornali, no, chiusure, blocchi secondo il Corriere della Sera, mezza Italia in quarantena secondo la Repubblica, Milano chiude, l'Austria ci blocca secondo il Messaggero, tutto il nord ostaggio del virus secondo la stampa, e certo le misure di emergenza prese sono di estrema prevenzione prese sono molto forti, perché appunto parliamo della chiusura delle scuole pur nella settimana di Carnevale, la chiusura dei musei, questo curioso fatto che in Lombardia, a Milano, i negozi chiuderanno dopo le 18, come se adesso la buttiamo là, come se prima delle 18 il virus non circolasse. Comunque, dopo le 18 evidentemente chiuderanno i negozi. Intanto si ammorbidiscono le cose invece in Cina, e sono notizie di questa mattina. 6 province hanno ridotto il livello di allerta, portandolo da 1, il più alto, a 2 o 3. Da Wuhan, epicentro del coronavirus, arriva la notizia che è permesso a questo punto ai non residenti delle città di partire se non hanno mostrato sintomi e non hanno mai avuto con infetti, contatti con infetti. Noi restiamo intanto un po' anche sulla cronaca, no, di quello che succede sul nostro territorio, in un altro di quei luoghi appunto nei quali insomma se è partita questa quarantena. Siamo a Castiglione d'Adda con Costantino Pesarotti, che è il sindaco. Sindaco, buongiorno, eccoci. Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Come vanno le cose da voi? La situazione è abbastanza critica, insomma, la cittadinanza è preoccupata di questa cosa. Tant'è che a seguito subito della prima ordinanza che è stata emanata c'è stata collaborazione, la gente comunque è rimasta nelle proprie case. Sì, è rimasta nelle proprie case e c'è ancora ed è ancora nelle proprie case, Pesarotti. Esatto, sì, ancora nelle proprie case. Noi naturalmente avevamo previsto già subito dal primo momento quella che era la chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione dei negozi alimentari e della farmacia, per naturalmente far approvvigionarsi di quelli che sono i beni essenziali. Vabbè, naturalmente qualcuno che ha avuto la necessità è uscito con le dovute precauzioni per recarsi, diciamo, in questi posti, però sostanzialmente ecco, la gente è collaborativa proprio perché c'è grande preoccupazione. Anche perché qui siamo, diciamo, nel punto in cui si è scatenato un po' tutto il contagio. Certamente in quell'area là ci scrive un ascoltatore: siate gentili, ho raffreddore e tosse, normalmente lo gestirei autonomamente, dovrei per dovere verso la comunità andare dal medico, fare bene a disdire un appuntamento a cena, uno squillo, un colpo di telefono al medico comunque glielo faccio, insomma, questo le possiamo dire. C'è tutta la questione, come dicevamo, la questione politica di quello che succede, e a proposito di quello che stanno vivendo anche a Castiglione d'Adda, sentiamo il capo della Protezione Civile Borrelli, no, che racconta un po' della vita nei paesi isolati. Carmelo, Lauricella, via, sentiamo. In questi territori continuerà la vita con una mobilità ridotta, quindi ci saranno i servizi essenziali, la raccolta della spazzatura, la possibilità di andare a fare la spesa e tutto ciò che dovesse servire. Se ci sono delle difficoltà anche a muoversi o difficoltà di vario genere, ci si rivolge al centro operativo comunale e il centro operativo comunale darà il supporto. Allora, questo il quadro raccontato da Borrelli, appunto l'ascoltatore, ci diceva un ascoltatore appunto se deve andare dal medico con raffreddore e tosse, beh insomma comunque una telefonata al medico male non fa. Vorrei sentire, nel ringraziare Costantino Pesaroli, sindaco di Castiglione d'Adda, vorrei sentire qualche voce di ascoltatore, ce ne state mandando parecchi via WhatsApp al 349-238-6666, continuate, tra l'altro da oggi alle 10 inizia un appuntamento in Uno Nessuno e 100.000, all'interno di Uno Nessuno e 100.000, con la nostra Ricoletta Carbone, con i medici di SIMIT, della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, esattamente per rispondere alle vostre domande, ma come sentite lo stiamo facendo anche qua. Via! Volevo chiedere se è possibile che ci siano cross reazioni, cioè che alcuni di quei positivi in realtà siano positivi magari al coronavirus, ma non al coronavirus che sta causando questo tipo di contagio, cioè ad un cugino, ad un parente di questo virus. Io volevo sapere quanto tempo dura il virus su una superficie, per esempio su un fazzoletto, su una superficie oppure sulle mie mani. È volatile o quanto, sì, volatile sì, ma quanto tempo dura la vita del virus una volta appoggiato da qualche parte? Siamo pronti ed è potuto succedere che uno con una febbre 39 andasse in un pronto soccorso ed è riuscito a infettare un dottore, cioè non poteva essere già portato avanti un protocollo di chi aveva febbre o di dove c'erano problemi, già essere isolato subito ed essere ricevuto con dei DPI sufficienti per non far ammalare il personale. Ci ha raggiunto Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano. Professor Pregliasco, buongiorno, benvenuto. Eccomi qua, buongiorno ecco, a tutti. Bentornato ai nostri microfoni. Dunque, allora, abbiamo un po' di domande, le avrà sentite, alle quali rispondere. Esatto. Allora, iniziamo dalla superficie, che è una cosa che si stanno chiedendo tutti fin dall'inizio, Pregliasco. Sulle superfici sì, quanto in dura? Effetti, un po' di paura c'era stata già prima di questa situazione ormai acuta rispetto a questa sopravvivenza, per uno studio che evidenziava come possono essere rilevati virus fino a 9 giorni dal momento in cui vengono messi su una superficie. Diciamo che al di là di queste prove sperimentali in un contesto appunto controllato, le goccioline respiratorie perdono la carica virale via via dal momento dell'emissione, quindi passando i secondi, passando i minuti, è vero, una certa residua quota carica virale, come si dice, c'è, ma di fatto sempre meno efficace. Quindi i concetti che stanno dietro al secondo dei due, lavarsi le mani è l'elemento importante, sta proprio qui nel essere certi che piccole quantità di virus, soprattutto poi se ce le portiamo toccando con le mani, alla bocca o agli occhi, che sono punti facilitanti l'infezione, può diventare un problema. Quindi diciamo, gli oggetti, gli alimenti zero, gli oggetti hanno un rischio assolutamente irrisorio e limitatissimo dal punto di vista della presenza di virus. Questo è importante da dire. La domanda un po' tecnica dell'ascoltatore di poco fa la semplifico io. È possibile che i test che attualmente abbiamo rilevino un altro tipo di coronavirus e lo scambino per il coronavirus del quale, per il Covid-19, per gli ASCO, o sono molto specifici? Purtroppo no, meglio, sono molto molto specifici, perché questi test che sono stati realizzati anche rapidamente grazie a questi sistemi di biologia molecolare che identificano praticamente la sequenza del genoma, quindi l'essenzialità del virus, la sequenza quindi in cui c'è la storia e le caratteristiche del virus, e quindi vanno a colpo sicuro. Possono esserci dei falsi negativi, come si dice, cioè campioni che vengono riconosciuti erroneamente negativi per errori nella esecuzione del test, nel passaggio fino al laboratorio, e anche in una situazione per esempio molto molto vicina al momento dell'infezione, e quindi per questo che spesso in alcune situazioni devono essere ripetuti, e quindi diciamo che il più va a colpo sicuro. Professor Pregliasco, il clima secco può facilitare la diffusione di questo virus? Il clima secco tutto sommato no, diciamo che speriamo con le temperature sempre più alte ci tolgano di mezzo velocemente intanto la nostra influenza, quella nostrana e fastidiosa che purtroppo si è messa di mezzo e ha fatto sì che i colleghi di Codogno non abbiano pensato all'italiano che era lì in una... No, senza un preciso rischio di avere il Covid, lo hanno trattato senza dispositivi di protezione individuale. Quindi, di fatto, credo che avrà una stagionalità, però purtroppo, essendo un virus nuovo, rispetto ai virus influenzali stagionali, gli importa un po' meno, insomma, delle condizioni ambientali. Ma, professor Pregliasco, la febbre del coronavirus... è una febbre importante o una febbriciattola un po' come l'influenza? C'è un po' di tutto, perché l'abbiamo sentito, ci sono, l'abbiamo viste persone che hanno una manifestazione un raffreddore, poco più, c'è chi ha un'influenza bella, nel senso triste del termine, e c'è chi addirittura ha questa polmonite virale che è legata a un approfondimento del virus, mentre i virus influenzali tipicamente, salvo rari casi, rimangono nelle prime vie aeree, qui arrivano nei polmoni e causano quelle forme che portano in rianimazione le persone più sfortunate. Ma sono poche, gran parte delle persone ha una manifestazione non pesante e soprattutto guariscono. Grazie. Sottolineiamo questo, guariscono. Grazie Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano. Cara Nicoletta, noi ti ritroviamo a questo punto alle 10 in coppia con Alessandro Milan, poi a mezzogiorno, insomma in questo periodo ti tocca in questo periodo. Ci fermiamo, GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa, al centro della rassegna anche molti di questi temi.